la valigetta nera con fogli bianchi dentro. Se ti do carta bianca, cosa disegnerai? Caviglie da straniera, cammina solo in centro. Oggi mi sembri stanca, ti sfiderò a Shanghai. Hai perso la corriera e te ne rendi conto. Prendi la barca a vela, andiamo a Castelfranco, vediamoci stasera per salutarci appena. Potrai tirare dritto, dire che è colpa mia. Non piango quasi mai, per non sprecare carta. Non mi consumerai la settimana corta. Dice chi troppo vuole, è una persona a posto, che su un binario al sole c'è morto qualche gatto. Facciamoci del male per non soffrire sempre. Hai messo sulle scale un rotolo di Scottex. Non piango quasi mai, per risparmiare